Tempo di sport con Carlo Genta. E allora un altro pallone per l'Inghilterra, ben lavorato da Croft, c'è l'avanzamento. Grandi fasi, Young. Ma sono fasi di grande attendismo da parte degli inglesi, muovono palla ma non hanno voglia di mettere accelerazioni enormi. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia, Italia-Inghilterra in campo da 6 minuti su un campo per buona parte innevato. Andrea Zorzi sta vedendo la partita qui con me, ciao Andrea, grazie. Buongiorno, ben ritrovati. Abbiamo addirittura cambiato posizione rispetto al solito, così anch'io posso vedere di sguincio la partita che stanno giocando la nostra Italia all'Olimpico di Roma. Sì, tra l'altro partita che è stata anche in discussione fino a un'oretta prima del calcio d'inizio, perché su Roma nevicava fortissimo, il campo era completamente bianco, poi per fortuna la neve ha concesso una tregua. Tra l'altro fa uno strano effetto, devo dirvi la verità, vedere Capitan Paris nel regno che normalmente è di Francesco Totti. Almeno a me fa uno strano effetto vedere questa partita in una cornice da derby. Beh, ormai fa coppia con la famosa amichevole dell'Italia del rugby contro gli All Blacks, qua giocata a San Siro con 80.000 persone. Sono già, diciamo, due i tempi dello sport che sono diventati adesso anche legati al rugby, che sta continuando ad avere una grandissima risposta da parte del pubblico italiano. Sì, tra l'altro poi bisogna anche mandarle a casa gli inglesi, perché è notizia di oggi, l'avete sentita credo prima nel GR, 50% dei voli di Fiumicino cancellati, quindi non è certo la condizione viabilistica ideale. Poi torniamo al discorso anche alla storia delle Olimpiadi, anche perché abbiamo un appuntamento particolare. Io per la cronaca vi do anche invece i risultati del calcio, almeno dove si è giocato. Cittadella Brescia 0-2, Crotone Grosseto 2-2, sto parlando naturalmente di Serie B. Regina batte Empoli 3-2, a Sampdoria vince ancora con l'Albino Leff 1-0, gol di Pozzi al 25esimo. Il Torino batte 3-1 la Nocerina, il Varese supera 1-0 il Gubbio, il Verona vince 2-0 con l'Ascoli. Una classifica che dice nulla, viste le tante partite da recuperare, tante partite cancellate, i tanti rinvii. Comunque guida il Torino con 53 davanti a Pescara e Verona a 51, Sassuolo a 50. Fermi tutti, nevica. Continua così questa storia, un po' anche all'estero, Andrea. Nevica tanto, certamente, situazione d'emergenza, solite polemiche, però comunque la sensazione che ho io è quello di vivere sempre in un paese sull'orlo dell'emergenza, qualunque cosa succeda. Sì, questo non c'è dubbio, questo è quello che ci sorprende. Poi riusciamo anche con grande abilità a complicarci da soli la vita. Insomma, notizia della settimana di questo scambio duro tra Alemanno e Gabrielli per le responsabilità dell'ultimo intervento. Poi si scopre che la Gabrielli non poteva intervenire, che Alemanno non ha chiesto aiuto e via dicendo. Quindi facciamo tutto ciò che è possibile per complicare una situazione che effettivamente è dura. Leggevo oggi un articolo legato ad alcuni piccoli paesi dell'Alta Valmarecchia in provincia di Rimini, dove un paese praticamente è a rischio di crollo per la tantissima neve che si è accumulata, e quindi i signori, molti di quelli anziani, si ritrovano in un albergo a giocare a carte, a cantare, insomma, in attesa che questa neve si sciolga un pochettino. C'è anche la notizia lì, che abbiamo sentito prima nel GR, di uno che ha messo le mani addosso a un assessore perché non aveva fatto spallare la neve. Quindi sì, anche notizia di cronaca qua non era ma quasi, insomma. Allora, anche lì è sempre molto rischioso, però in questi ultimi periodi i tanti titoli che erano più o meno del genere abbandonati, ci lasciano da soli, non ci hanno aiutato. Ora è verissimo che le istituzioni, i governi, i comuni, le regioni devono prepararsi all'emergenza, ma insomma prendere una pala e provare a spalare se possibile un po' davanti a casa, e solo in caso di reale emergenza, se cade 1,5 metri di neve, e non siamo mica pronti ad arrangiarci noi altri adesso, certo. Se cade 0,5 metri di neve, io credo che ce la possiamo fare. Sì, ce la possiamo fare, almeno proviamoci. 800 24 00 24, numero verde per intervenire naturalmente non solo sulla situazione neve ma sullo sport. 349 238 6666. Invece per i vostri messaggi, tra l'altro, inviateci su Facebook le vostre foto dagli stadi, poi raccontiamo, proveremo a farlo, sia oggi che domani, le foto che riuscirete ad inviarci. Facciamo un salto lì all'Olimpico, da Dario Ricci, nella ghiacciaia dell'Olimpico, per capire come sono i battiti di questa partita ancora all'inizio, di questa Italia-Inghilterra. Dario. Sì, buonasera Carlo, buonasera Andrea, saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo al 10° minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0, finora però tanta Inghilterra, soprattutto nei primi 3-4 minuti iniziali, quando ci ha voluto solo un provvidenziale placcaggio di Barton per fermare Stretzel, a quel punto lanciato veramente verso la meta. Poi gli azzurri hanno provato, stanno provando a mettere la testa fuori nella metà campo inglese, ma come sentite il boato dell'Olimpico sottolinea sia il calore di questi tifosi che sono riusciti ad arrivare qua allo stadio, ma anche il momento di difficoltà del 15 di Jacques Brunel, prima volta qui all'Olimpico, Carlo, prima volta in Italia per il Neo CT, finora il risultato di 0-0, un Olimpico come dicevi ghiacciato, perché come abbiamo raccontato nei nostri GR c'è anche corso il rischio di non giocare a questa partita, perché la nevicata è stata forte, poi l'impegno di tutti e soprattutto l'aiuto del cielo, perché alle 15.30 ha smesso di nevicare e quella neve si è trasformata in pioggia, ha permesso lo svolgimento della gara, e anche l'afflusso dei tifosi, saranno un 60.000 d'occhio, perché sicuramente qualche migliaio sia con i treni non è riuscito ad arrivare, sia magari ha fatto fatica ad arrivare proprio qui all'Olimpico. Dario, domanda velocissima, oggi leggevo che Parisse ha detto che tutti si aspettano che l'Italia vinca contro l'Inghilterra, poiché non appartengo a questa folta schiera di coloro che sono convinti che l'Italia sia obbligata a vincere, come siamo arrivati al fatto che contro l'Inghilterra sembra si debba vincere? Ma guarda, un po' probabilmente l'atmosfera, si pensa in grande, perché questo esordio all'Olimpico, per quanto segnato dalla neve, è veramente qualcosa di eccezionale per il clima che ha portato, emotivo che ha portato a questa sfida. Poi anche perché l'Inghilterra è in una fase di forte rinnovamento dopo un mondiale deludente, e quindi questo lascia pensare che potremmo metterli in difficoltà in qualche modo. Poi c'è però il disastro del campo, il responso del campo, e finora si è vista soprattutto tanta Inghilterra, Andrea, quindi aspetterei a darla per messa al sicuro questa vittoria, è tutta da conquistare. A me sembrano un po' quelli che gridano nel bosco per farsi passare la paura, no. Ma però c'è anche il rischio, come dire, di caricarsi addosso il peso di un pronostico che per la verità io non pensavo ricadesse sull'Italia, davo per scontato che l'Inghilterra mai battuta nelle Sei Nazioni, sarà anche il rinnovamento, ma anche l'Italia si sta rinnovando, quindi insomma. Beh, ma sai, qualche anno che i commissari tecnici, Brunel compreso, dicono l'obiettivo è vincere le Sei Nazioni, che poi questo non sia possibile, lo scopriamo. Comunque per il momento è pareggio, ma sono passati soltanto 13 minuti di gioco. C'è il traffico in linea, lo ascoltiamo, particolarmente importante oggi, poi parliamo un po' di cattivi ragazzi, perché è stata una settimana di cattivi ragazzi, compresa la giornata di oggi in cui in Inghilterra, a Old Trafford, si è visto un gesto che insomma ha fatto molto clamore e farà molto clamore in una settimana in cui, come sapete, Capello si è dimesso per la storia che conoscete, la fascia sottratta a John Terry contro la sua volontà, da CT dell'Inghilterra. Ebbene, sono temi che a Ibrahimovic, quel vizio di alzare le mani, insomma è stata ed è una settimana da cattivi ragazzi. Sempre 0-0 tra Italia e Inghilterra al quindicesimo, l'Italia che prova ad attaccare, a uscire da una morsa in cui gli inglesi l'hanno costretta per i primi 15 minuti di gioco. C'è anche una notizia non certo positiva in chiave azzurra, anche se in qualche modo attesa, perché l'Italia di Coppa Davis ha perso 3-0, ha perso anche il doppio oggi, Stepanek e Berdych hanno battuto Bracciali e Starace 6-3, 6-4, 6-2, 3-0, sfida chiusa prima dei due singolari che non conteranno nulla, e Italia che a settembre dovrà giocare per la salvezza. Andrea, sai cosa è successo oggi a Old Trafford? Allora, Manchester United, Liverpool. In Inghilterra si scende in campo, i giocatori si stringono la mano come si fa normalmente anche dalle nostre parti. C'è Suarez, giocatore uruguayano molto forte che tutti conosciamo, protagonista degli ultimi mondiali, che gioca nel Liverpool, che all'andata fu squalificato per ben 8 giornate perché disse ad Evra, giocatore del Manchester United, io coi negri non ci parlo. 8 giornate di squalifica. Oggi si ritrovano contro e che succede? Suarez platealmente evita di dare la mano ad Evra, lo salta via proprio, non lo guarda neanche in faccia. Evra gli prende il braccio come per evidenziare questa mancanza, cerca di intervenire anche l'arbitro. poi vince sul campo United 2-1 e c'è anche Ferguson, allenatore del Manchester United, che dice: Suarez è una vergogna, questa è una twittata, Suarez è una vergogna, non gli dovrebbe più essere permesso di giocare con il Liverpool, ci è andato giù piano. Beh, si vede che le 8 giornate non sono servite a far tornare più o meno in sé un ragazzo che ha fatto una stupidata senza senso. Già questa storia dei problemi razzisti in questi giorni, poi tu accennavi, è legato anche al capitano, all'ex capitano dell'Inghilterra, Terry, per pare ancora, giusto, non è ancora confermato, che abbia rivolto delle frasi ingiuriose a sfondo razzista. Non so che dirti, mi sembra una stupidata ciclopica. Poi ho visto alla fine della partita vinta dal Manchester United, in cui Evra è andato platealmente a festeggiare vicino a Suarez, il quale ci mancherebbe altro, è andato 4-4 negli spogliatoi, però non ha veramente nessun senso. Hai già fatto una stupidata, e uso un eufemismo, all'andata, stai fuori 8 giornate, hai tempo di pensarci, te lo dicono e poi... O ritiene di aver subito un'ingiustizia, ritiene di non aver commesso. Che lui ritenga, lui può ritenere anche di aver ragione a dire: io con un nego, ma è una... Sì, ma la stupidità umana non c'è confine. Esatto. Lui può ritenere, anzi immagino che sia questa la ragione per cui si comporta così, ma è lui che è fuori di testa. 800 24 00 24, anche per sentire il vostro parere, oltre a quello di Andrea Zorzi, sulla questione di Capello, perché lì, allora, pare che Terry, anche lì, tutto sub iudice, perché non c'è ancora stato un giudizio, non c'è ancora stata una squalifica, pare che Terry abbia apostrofato con insulti sempre di questo tipo il fratello di Anton Ferdinand, un avversario in campionato. La federazione inglese gli ha tolto la fascia di capitano in pendenza di un giudizio che appunto non è ancora cominciato, senza chiedere l'opinione del commissario tecnico, il quale ha detto: salute, me ne vado. Io ho la sensazione che sia un po' pretestuoso, perché il rapporto era in crisi da tempo. Ma come valuti la posizione di Capello? Tu che sei un amante del basket sai bene cosa significa cogliere la palla al balzo. O prendere due piccioni con una fava. Sì. Secondo me la federazione non vedeva l'ora di liberarsi di Capello. Capello non vedeva l'ora di liberarsi. Mi sembrava strano anche il fatto che Baldini, vero, il nuovo direttore sportivo della Roma, avesse in qualche modo abbandonato. Mi pare che Baldini sia un super fedelissimo a Capello, quindi evidentemente era già un sintomo questo del fatto che Capello non si immaginava di avere una lunga carriera in quella posizione, e entrambi hanno colto l'occasione per liberarsene. Adesso Capello dice che non avrà nessun ruolo nelle squadre italiane, tutti ricordano. Ma la posizione della federazione tu come la valuti? Cioè, è comprensibile, è legittimo, è saggio questo tipo di provvedimento? È giustificabile? Allora, è vero che quando una federazione o qualunque istituzione deve intervenire a piedi pari per ristabilire un comportamento normale, significa che c'è qualcosa che non funziona perfettamente, vuol dire che evidentemente non è così condiviso il sentimento che rivolgere frasi stupidamente ingiuriose per questioni razziali è una stupidata ciclopica. Qui però non c'è ancora una sentenza, qui è una questione ancora da dirimere dal punto di vista della giustizia sportiva. Però parliamo di Suarez, 8 giornate di squalifica. Suarez, sì, certo. Per una cosa che è legata in qualche modo a un comportamento razziale. Terry adesso evidentemente non credo che la federazione sia mossa così proprio in virtù di un sentito dire o poco altro, e che non è ancora confermato. Mi pare che ci sia grande attenzione, ripeto, in un paese, l'Inghilterra, in una città come Londra, che è in assoluto la più interculturale, la più melting pot, è diventata il vero luogo dove ogni popolazione, ogni nazione ha dei rappresentanti, però c'è molta attenzione e lo fanno pubblicamente perché evidentemente è ancora un tema sul quale occorre battere forte. Io ripeto, non amo moltissimo gli interventi dall'alto, ma mi rendo conto che in alcuni casi è fondamentale far capire con molta precisione, a scanso di equivoci, quali siano le direzioni che si vorrebbe seguire. 800 24 00 24 00, tra Italia e Inghilterra, 20 minuti di gioco trascorsi e, come detto, azzurri che provano a costruire qualcosa. Io vi leggo questo sms 349 238 6666. A questo punto, se anche una spolveratina di neve blocca mezza Italia fra treni ed aerei, è meglio farle le Olimpiadi, si miglioreranno i servizi. Questo scrive un ascoltatore. Vi faccio poi sentire anche una cosa. gruppo di giovani pieni di entusiasmo, pronti ad impegnare le nostre energie e la nostra collaborazione al successo di un progetto importante che lasci il segno. L'olimpismo è filosofia di vita, fusione armonica di sport e cultura. Vogliamo trasmettere e preservare questi valori. Allora, Luciano Di Blasio, membro fondatore dell'associazione Giovani Roma 2020. Buon pomeriggio. Buonasera, buonasera a voi. Chi siete? Presentatevi. Allora, noi siamo appunto Giovani Roma 2020, siamo un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 21 e i 28 anni che ci siamo riuniti ormai circa un anno fa, abbiamo fatto questo video di cui voi avete proposto una parte di audio, perché crediamo che Roma debba ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020 e quindi ci siamo proposti per supportare la candidatura stessa della città ai Giochi, insomma. Quindi così è. Perché 21-28? No, questo è al momento siamo la più giovane, Rossella ha 21 anni, il più vecchio, tra virgolette, Riccardo ne ha 28, ma è solo per citare l'attualità della cosa. Siamo, diciamo, iscritti tra fondatori e ordinari, siamo circa una trentina, sì. Più insomma i nostri followers sulle nostre pagine Facebook, Twitter, insomma, quindi abbiamo un seguito di soci, in qualche modo amici che seguono le nostre attività. E scusa, un'altra domanda, hai fatto riferimento ai Giochi Paralimpici prima? Sì. Ma come secondo evento che seguirebbe le Olimpiadi del 2020, giusto? Certo, chiaro, perché dal 2008, dal 2012 non sono sicuro, ma la città che ospita i Giochi Olimpici deve per regole ci ospitare ovviamente anche i Giochi Paralimpici nell'ottica di avere una parità ovvia tra le due manifestazioni. Ok, domanda secca, Luciano. Sì. Nessuno di noi, anche se ci siamo dimostrati in alcuni casi un po', come dire, scettici sulla possibilità che l'Olimpiade possa essere organizzata bene, ha mai nascosto il piacere di pensare che sarebbe bellissimo poter ospitare una bella Olimpiade organizzata bene, senza scandali. La domanda è, al di là della possibilità che l'Olimpiade rappresenta, voi siete convinti che questa volta potremmo fare diversamente rispetto al passato? Noi siamo convinti nella misura in cui, dal nostro punto di vista, è il momento che la fetta più giovane della popolazione si metta in gioco, perché l'Italia in questo momento è sicuramente davanti a grandi sfide, a livello economico lo vediamo in ogni momento nei telegiornali, ma anche a livello sociale e in qualche modo anche a livello di identità. Quindi dobbiamo essere noi a metterci avanti, ed è quello che abbiamo fatto noi di Giovani Roma 2020, ma che in cui vogliamo coinvolgere il resto dei giovani del paese e non solo, per cercare di proporre una candidatura seria e quindi di riorganizzare finalmente un evento a livello internazionale che faccia dimenticare quelli che possono essere state le problematiche di eventi passati nella città di Roma, in Italia in generale, insomma. Sicuramente si può fare, perché no? Sicuramente sarebbe un rilancio per l'economia, sarebbe un rilancio per lo sport stesso, e lo sport significa anche rilancio sociale. Sicuramente i giovani, che adesso sembrano, i giovani italiani sembra molto difficile che si interessino a qualcosa, tramite un grande evento come le Olimpiadi, che sono sicuramente uno dei pochi eventi rimasti ad essere visti come puliti, come genuini, legati appunto a una cosa bellissima come lo sport, possono riattivare questa grande qualità che viene dai giovani, insomma. Grazie Luciano, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie al lupo. Che tra poco arriva la risposta. A me fa molto piacere sentire dei ragazzi giovani che credono alle vere potenzialità di un evento sportivo. Beata gioventù. Sì, non vorrei neanche fare adesso... Ingenua gioventù. Bravo, non vorrei neanche fare come fai te, l'adulto ormai cinico che ha perso qualunque tipo di entusiasmo o di speranza. Ti direi invece che sono veramente convinto che dobbiamo ricordarci che lo sport può essere un'occasione, potrebbe essere davvero quella spinta in più per cambiare marcia. Per me il vero grande step è legato al fatto che non ho notato nella ipotetica candidatura dell'Italia qualcosa che mi possa convincere che c'è un cambio rispetto al passato, e questo mi lascia un po' perplesso. Dopodiché potrebbe essere la grande occasione. L'Italia del rugby perde un pallone terribile con un errore di passaggio, di trattamento della palla piuttosto importante, e l'Inghilterra si avvicina alla meta, c'è una punizione, o comunque si avvicina ai primi punti, c'è una punizione per i nostri avversari, siamo al 26esimo minuto di gioco, ancora punteggio 0-0 all'Olimpico tra Italia e Inghilterra in questa seconda partita del Sei Nazioni. Noi ci fermiamo un attimo per una breve pausa. Poi continuiamo a parlare ancora di cattivi ragazzi e vorrei sentire anche Andrea Zorzi invece su una storia a mio parere molto bella che arriva dagli Stati Uniti, molto particolare, molto americana se volete. Abbiamo raccontato in parte ieri in Palaspicchi, ma oggi c'è un nuovo capitolo, cioè quella di questo carnea di Jeremy Lin che è diventato in una settimana l'idolo di New York City. Il nostro numero verde per parlare con me, soprattutto con Andrea Zorzi, è sempre 800 24 00 24. 0-3 è invece il punteggio parziale di Italia-Inghilterra e torniamo a fare un flash all'Olimpico con Dario Ricci. Sì Carlo, siamo al 33esimo di gioco, Inghilterra avanti 3-0 come giustamente sottolineati, è stato decisivo finora un calcio di punizione di Farrell al 25esimo, c'è stato un errore in una combinazione tra Paris e Canale, Strettel ne stava approfittando e stava di fatto volando verso la meta, inevitabile il fallo di Barton per bloccarlo e altrettanto inevitabile la punizione da circa 35 metri che Farrell ha trasformato. Un'Italia che rispetto al precedente collegamento ha guadagnato metri, ha portato più in avanti il proprio baricentro, ma senza però creare pericoli. Rispetto alla partita di Parigi, pur persa con la Francia, sembra anche smarrita quella tendenza a giocare il pallone, sì. Ci si affida spesso ai calci di Barton, alle percussioni di Paris e da Giovanni e Bortolami, ma senza riuscire a garantire un adeguato sostegno, e dire che l'Inghilterra che stiamo vedendo finora non è che sia rugby champagne, tutt'altro. No, tutt'altro. Grazie a Dario Ricci, ci sentiamo naturalmente più tardi. Oh, c'è chi chiama dalla neve, Stefano da Modena, buonasera. Salve. Com'è la situazione meteo laggiù? Oggi Modena-Padova è tra le partite rinviate. Sì, no, qui è un incubo. Incubo, no. Addirittura. No, un incubo, nel senso adesso ha finito e poi hanno anche pulito, devo dire, sono stati perfetti. Però la partita era giocabile, almeno solo con i sci di fondo. Si può sì. Che non è male. Che non è male. Non è male. Dica. Allora, no, io ho sentito prima quel ragazzo che interveniva per le Olimpiadi a Roma. Sì. E io ritengo che noi abbiamo dei problemi di fondo che partono dalla gestione della città. Abbiamo ancora gente che fa il saluto romano, che è sindaco della città, con figli che commettono atti che conosciamo bene. Abbiamo ancora Bertolaso che osa parlare e mi viene un po' da ridere. Secondo me, io penso che questi giovani dovrebbero cominciare col cambiare indirizzo politico e forse così dare nuove prospettive a una regione che sì, in quel senso ha dei problemi allucinanti. Sì, regione, no, però mi perdoni Stefano, poi sentiamo cosa ne pensa Andrea Zorzi, non la butterei troppo sul politico e sui saluti romani, stiamo parlando di possibilità del nostro paese di organizzare un evento globale, anche se la parola mi piace poco, come le Olimpiadi. Andrea? Ma così, anch'io ho trovato molto, molto forte, molto caratterizzato l'intervento di Stefano da una componente politica, sulla quale peraltro ci sono degli aspetti, se si può discutere, si mancherebbe altro. A me quello che manca un po' è che questa candidatura, e lo ripeto per l'ennesima volta, passa un po' come se fosse una delle tante proposte di organizzazione di grandi eventi degli ultimi anni. Ricordavo qualche settimana fa, quando ero ospite di Giannino, che sì. Montreal 1976, sì. Il governo accettò di appoggiare la candidatura a patto che il comune di Montreal si impegnasse a non chiedere nessun finanziamento per ripianare eventuali buchi dell'organizzazione. Sapete quando hanno finito i cittadini di Montreal di pagare il mutuo che hanno dovuto accendere? Nel 2006. Sì. Però stiamo dicendo, si sono impegnati, hanno fatto una votazione, i cittadini hanno detto no, ci teniamo, siamo disposti a pagare per fare l'Olimpiade, siamo convinti che sia una buona occasione, hanno fatto l'Olimpiade, immagino nel modo migliore possibile, i debiti hanno finito di pagarli 30 anni dopo. Sì, sì, sì. Ora questo non significa che se Roma vuole l'Olimpiade, e non vorrei mai fare il leghista, deve organizzarsela, perché non è così. Sta però dietro il ragionamento che se vogliamo fare qualcosa di diverso dobbiamo avere davvero qualche segnale che qualcosa sta cambiando, e questo non mi pare sia sufficientemente forte. Si è fatto male Castro Giovanni, che ha dovuto uscire. Questa non è una buona notizia per l'Italia del rugby, sempre sotto 3-0 all'Olimpico contro l'Inghilterra, un'Italia che prova a resistere. Castro Giovanni colpito duro, ha chiesto allo sterno, l'impressione, ha chiesto il cambio, non potrà rientrare a giudicare dalle condizioni. Prima di Luca da Milano, altro ascoltatore all'800 24 00 24 numero verde. Come sapete, alle 18 c'è anche la partitissima di questa giornata di Serie A, peraltro dimezzata come d'abitudine in questi tempi. Di oggi la notizia del rinvio della gara di Parma di domani, cioè Parma-Fiorentina. Non si giocherà neanche Bologna-Juventus, che era il posticipo previsto per domani sera. Ci sono due partite lunedì, la Lazio ha già giocato, insomma tutto spolverato su questo weekend pieno di neve. Giocherà il Sharawi con Robinho in attacco nel Milan, non c'è naturalmente Ibrahimovic. Ecco Andrea, voglio chiederti questo, Ibrahimovic e questo vizio di farsi del male, anche di fare del male alla propria squadra, lo fa con il Napoli, becca 3 giornate di squalifica su cui si apre tutta la dietrologia e tutte le polemiche possibili, poi lo rifà in Coppa Italia contro la Juventus e poi Chiellini che denuncia alle televisioni, avete visto anche Ibrahimovic ha colpito storarie, c'è questa polemica strisciante. Io partirei da questo: quando vedo Ibra alzare le mani ho una serie di immagini legate a Ibra che mi fanno dire, ecco il suo viziaccio, lo fa sempre, è un po' il bullo di periferia, è la sua carriera, litiga o insulta le persone, e quindi mi verrebbe da essere particolarmente intransigente nel punire le sue bravate. Poi penso ai mondiali del 2006, penso a Zidane, che è stato e forse è ancora il mio idolo, che dà una testata, non so bene come sia andata, non so mai, ma di fatto assolutamente inspiegabile. E quindi mi rendo conto che quando si è in campo in certi momenti può accadere che uno reagisce d'impulso. È però vero che l'essere recidivo significa che, poiché lo sai che in alcuni momenti ti viene troppo facile perdere la testa, dovresti dedicare un po' di attenzione e di energie proprio a controllarti. E nel caso di Ibra, nell'ultimo caso, non era certo una manata molto forte, ma era pensata, voluta, immaginata e via dicendo. Premeditata, insomma. Premeditata. E del comportamento di Chiellini cosa ne pensi invece? Che davanti alle telecamere va lì, nel dopo partita sottolinea quel gesto di Ibrahimovic, quasi a voler provocare un intervento del giudice sportivo, quasi a voler... insomma, sottolineare questo brutto gesto dell'avversario. Noto gli è stata data della spia, eh. Esatto, cioè, mi sembrava in te la tipica, no, perché non si deve fare la spia. Cosa che Galliani ha detto. Sì, inopportuno. Poteva risparmiarsela. Abbiamo detto più volte che l'esposizione mediatica dei calciatori a volte trasforma dei gesti che sono abbastanza normali, se tenuti all'interno dello spogliatoio o di un rapporto di chiuso, campo, esposti alle 1000 telecamere. Mi ha fatto impressione vedere quante prospettive dello schiaffo di Ibra erano già disponibili un istante dopo. E quindi dicevo, alcuni gesti che in qualche modo fanno parte di una dinamica relazionale abbastanza comune vengono esaltati e amplificati. Questo è un problema che tutti conoscono, hanno imparato a parlare con le mani davanti alla bocca per non farsi leggere il labiale, e sono in qualche modo costretti a dedicare energia, a pensare ad evitare di fare dei gesti che potrebbero essere normali se non fossero registrati da 25 telecamere consecutivamente. Poi Chiellini si poteva evitarselo, ma insomma non andrei neanche adesso ad essere troppo rigido nel giudicare il suo intervento. Inghilterra 6, altro piazzato per i nostri avversari di oggi, Italia 0, ma Italia che si avvicina alla linea di meta inglese, anche se la difesa dei bianchi resiste. Siamo vicini allo scadere del primo tempo, 37-43 di gioco, palla persa dagli azzurri, attenti che però recuperano il pallone e vanno a marcare una meta, e questo è un fatto... È un fatto importantissimo, tra l'altro prima meta italiana nel Sei Nazioni, e Italia che insomma un po' di rapina, perché anche qui è arrivato da un errore di un inglese che aveva praticamente la palla tra le mani, e Venditti alla seconda presenza in nazionale debuttante una settimana fa a Parigi va a marcare questa meta davvero molto importante. Intanto Luca da Milano e Mario da provincia di non so dove, perché non me l'hanno scritto, sono in linea, tra poco parleranno. 800 24 00 24, nemmeno il tempo di fare la doccia. E anche Suarez dagli spogliatoi dell'Old Trafford ha twittato: sconfitta che fa male per lo sforzo che abbiamo profuso, infastidito perché non tutto è come sembra, scrive il giocatore uruguaiano del Liverpool che ha rifiutato la mano ad Evra. Non tutto è come sembra, ci spiegasse che cos'è, allora com'è se non tutto è come sembra. Centro con le sue gambe esplosive, un campo dall'altra parte, perfetto, e questa volta sai che sospetto che anche la trasformazione possa essere un attimo più facile, e vai Tommy, bello! Pandemonio all'Olimpico, perché l'Italia è andata di nuovo in meta. Dopo quella che vi abbiamo raccontato, con conseguente calcio fallito da Barton, ma da posizione non semplice, palla recuperata dall'Italia e nuova meta con l'Italia che ora passa a condurre 10-6 sull'Inghilterra allo scadere del primo tempo. Davvero pandemonio. Hai visto, Andrea? Grande azione. Grande azione, recupero, adesso questa Barton la caccia dentro e allunghiamo l'elastico, quantomeno si va al tè con buone sensazioni, quantomeno con un risultato positivo. Centra i pali Barton, 12-6 per l'Italia, 41esimo di gioco, quindi siamo allo scadere del primo tempo. Luca, Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ma niente, io volevo, per quanto riguardava le Olimpiadi di Roma, esprimere il mio parere, che è sostanzialmente molto scettico, anche a partire dalle esperienze passate, ma anche abbastanza recenti, dell'Expo di Milano, dei mondiali di nuoto, del stesso anniversario, 150esimo anniversario d'Italia, dove insomma nella migliore delle ipotesi sono stati fatti investimenti sbagliati, malversazioni. Certo, gli avvenimenti sono sempre stati gestiti con sciatteria e le ultime esperienze non sono incoraggianti. Questo nella migliore delle ipotesi, ovviamente, perché poi, anzi nei migliori dei casi, perché poi in quelli peggiori ovviamente se poi adesso siamo nel penale, per cui secondo me prima di impegnarsi per gestire un avvenimento del genere, anche a fronte degli avvenimenti appunto della Grecia, che sembra che poi abbiano anche preso un po' origine dagli investimenti fatti per la gestione delle Olimpiadi. No, ma di sicuro non è uno scherzo e insomma lo ripetiamo da il silenzio di Monti, per esempio, prolungato potrebbe essere un segnale, che non significa che alla fine non appoggerà la candidatura, ma settimana c'è il termine. Ma quindi si vanno già a Losanna. Considera che questo me lo disse Pescante un po' di tempo fa: uno degli aspetti principali di maggiore importanza per il CIO è vedere il supporto omogeneo da parte della parte politica. In questo caso noi non ci presentiamo. Questo proprio requisito non esiste fino in fondo. Mario, provincia di Ascoli. Sì, buonasera, San Benedetto del Tronto, sotto la neve. Quanta? No, adesso sta iniziando a nevicare, diciamo che ci sono buon 20-30 centimetri sulla costa. Comunque io mi riallaccio al discorso delle Olimpiadi. Due domande mi pongo: chi è che organizza le lettere aperte di tutti i grandi sportivi per far sì che ci siano le Olimpiadi a Roma nel 2020? E non riesco a capire chi è che... Non penso che una Pellegrini si metta lei di sua iniziativa a fare una lettera aperta, primo. Secondo, ci siamo dimenticati della piscina fatta per le Olimpiadi di nuoto, per i mondiali di nuoto? Non se l'è dimenticata nessuno, cioè, quella. Oppure io ho visto le Olimpiadi a Torino, le strutture fatte per le Olimpiadi di Torino, che adesso sono chiuse, abbandonate, lasciate a se stesse perché i costi di gestione sono troppo alti. Vorrei capire chi è che macchina tutto questo per far sì di poter gestire miliardi di appalti che poi dopo ripagheremo noi come collettività. Vorrei il vostro parere, grazie a lei. Per quanto riguarda la lista, è il comitato Roma 2020 che ha chiesto se gli atleti volevano fare una dichiarazione in supporto alla candidatura, quindi liberissimi di fare come ritengono. Per quanto riguarda poi il fatto, torniamo sempre lì, che il passato pesa negativamente sulla convinzione che si possa cambiare strada, dobbiamo pensare a questo. Però io credo che il CIO sappia perfettamente che sarà necessario cambiare strada per le prossime Olimpiadi. O le affida a Doha, o a Baku, che sono due città che possono investire quanti soldi vogliono perché hanno del petrolio, o devono ritornare a pensare a un evento che sia sostenibile. Se no, nessun paese, ma queste sono informazioni di natura quasi economica, che sta dal 10° al 20° posto nella classifica dei PIL, è in grado di sostenere in modo accettabile i costi per un'Olimpiade così organizzata. Allora, anch'io mi piacerebbe che qualcuno dicesse: io mi candido, però caro Cio, non possiamo continuare a fare in modo che l'Olimpiade sia un grande evento economico e commerciale. È qualcosa di più, che va organizzato magari anche cambiando un po' le regole che finora sono quelle strettamente da rispettare. Certo. Andrea, volevo rapidamente, prima di chiudere con l'Olimpico, con un commento dall'Olimpico, sottoporti un paio di argomenti. Ricomincia la Champions League in settimana. C'è una particolarità della Champions League di pallavolo che trovo interessante. Si chiama Golden Set. Per che evitare... è come il Golden Goal? È un set. È un set giocato ai 15. In pratica succede questo: la Federazione Europea ha deciso che per evitare partite scontate in caso di vittoria netta per 3-0 nella partita di andata, ciò che conta non è la differenza set, ma è la vittoria. Se tu vinci, cosa che ha fatto Cuneo due settimane fa, a Macerata per 3-0, ma poi perdi, cosa che Cuneo ha fatto la settimana dopo, 3-2, set tiratissimi, in quel caso vittoria 1-1, una Macerata, si fa il Golden Set. Si gioca un set ai 15. Chi vince quel set passa. Ora salta completamente il valore dei punti, dei set. Rimane vivissimo l'interesse per la seconda partita. Secondo me è antisportivo, nel senso che ci perdiamo per strada un po' quello che è l'importanza dei singoli set. È vero però che così si limitano quei rischi di partite senza senso, che una squadra vince 3-0, poi vince il primo set ed è tutto tempo spazzatura. Volevo parlarvi anche di Jeremy Lin, di questo carnea del basket da stelle strisce, che è diventato in una settimana l'idolo di New York, anche perché stanotte ne ha fatto un'altra. 38 punti per questo giocatore che una settimana fa nessuno conosceva nel mondo da pallacanestro, nemmeno in quella americana. 38 punti in faccia a Kobe Bryant e Los Angeles Lakers, con vittoria dei Knicks 92-85. Mi sarebbe piaciuto parlarne, però abbiamo ancora un minuto che dedichiamo volentieri all'Olimpico, a Dario Ricci, a questo a questo tè dolcissimo per l'Italia. Dario. È vero, un tè dolcissimo, Carlo, perché siamo all'intervallo e siamo avanti 12-6. Ebbene, mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo e dentro di me ho detto: oddio, di solito questo è il momento in cui l'Italia fa gli errori che segnano la partita, no? La vecchia Italia. E invece questi errori l'ha fatta stavolta l'Inghilterra. Al 37esimo c'è stata la meta di Venditti, e se qualcuno ha inventato il gol lonzo, beh, questa è stata proprio una metonza, se mi concede il neologismo, perché errore clamoroso di Youngs, errore in serie della difesa inglese, all'ultimo di Youngs, che lancia di fatto sulla linea di meta Venditti, bravissimo a trovarsi lì e a schiacciare in meta. Bartono purtroppo fallisce la trasformazione, ma passano appena 3 minuti che questa volta l'errore arriva all'altezza del centrocampo da parte di Foden, che lancia di fatto Benvenuti, che con una splendida volata di 40 metri deposita il pallone in mezzo ai pali, e stavolta Barton realizza. Quindi 12-6, Dario, ci risentiamo leggere, che qua dobbiamo chiudere. 12-6, grazie Andrea Zorzi. Ciao Dario, ciao a tutti. Grazie davvero Andrea Zorzi, Giorgio Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani alle 4:30. A tempo di sport.